Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ci siete? Ah, bene, bene. Che bello essere qui con voi. Ogni scusa per venire mi fa bene a me. Quando il pastore Mirko mi ha detto, Gianni, sarai che suonavo qua nei paraggi di Modugno, agosto, ho detto, ma sei proprio il primo agosto sono nei paraggi di Modugno, a Bari, no? E quindi è una gioia per me essere con voi, anche io godo il tempo con voi. Come si dice in inglese, in italiano, you are spoiled? Siete viziati. Ah, grazie, io ho la migliore traduttrice davanti a me. Voi siete viziati come chiesa. Io vorrei cantare con la band un'altra 10 ore di seguito. Mamma mia. E poi mi piace sentire il basso nello stomaco, no? Boom, boom. Questo trasporta l'unzione meglio, diciamo. Ok. Sì, ho avuto colazione con i pastori Mirko e Giorgia mercoledì mattina. E sono così, i due sono così fantastici. Veramente, veramente. La cosa bella quando i pastori, un pastore si sposa è che voi pagate uno e ne avete due, in effetti, no? Come si dice, due al prezzo di uno. Vi avviso oggi, vi farò ridere. Io voglio che andate a casa dicendo, ne è valsa la pena andare alla riunione di chiesa e non a mare oggi, no? E quindi vi farò ridere molto e poi al momento giusto, boom, vi colpirò, ok? Va bene? Un dentista buono è quando tu vai al dentista e dici, ho finito, e tu dici, veramente? Non ho sentito dolore, sì, ma te l'ho tolti i 3 denti che c'avevi, no? E quindi spero che questo sarà per voi oggi così. Io volevo predicare una cosa quando mi sono preparato per voi e poi ho cambiato idea. E quindi se io avessi predicato quello che le volevo predicare, vi avrei parlato su quello che è in effetti la sostanza del tutto. Non so se voi a volte vi chiedete, ma sentiamo tante prediche, leggiamo tanti libri, andiamo alle conferenze, ma in effetti cos'è il succo, no? Se io avessi predicato su quello che voi avete parlato, avrei predicato proprio su questo, quello che è la sostanza del tutto, no? E quindi, ma non predicherò questo. Però se avessi predicato quello, avrei predicato sulla sostanza del tutto. Se tu sei una persona che dice, Gianni, guarda, io ho un lavoro che mi prende tantissimo, ho 5 figli e una moglie, ho un marito, e tu mi dici, io non ho il tempo di fare tutte queste cose qua, andare alle conferenze, leggere tutti i libri, approfondirmi nella teologia, la filosofia cristiana, non ho il tempo, dimmi qual è il succo del tutto. Io ti avrei detto, sono soltanto 2 cose. E se avessi predicato su questo, ti avrei detto che numero 1 è ama bene. In inglese è bello, si dice love well. Ama bene. E poi ti avrei detto che la seconda cosa è vivi bene. Live well. Quindi è semplice, solo 2. Tu dici solo 2. Sì, non 50.000. No, non 50.000. Tutto quello che viene predicato qui, tutto quello che dirò oggi, nella predica vera, no? È questo. Deve essere parte di questo. Love well e live well. Dici, ma com'è Gianni? Ma sei sicuro? Come puoi dire che ama bene, vivi bene, è l'essenza di tutto quello che sentiamo, è la ragione di tutto, per tutto quello che facciamo in chiesa, tramite la chiesa, eccetera? È perché quando Gesù gli fu chiesto qual è il comandamento maggiore, il più grande comandamento, cosa ha detto Gesù? Ha detto ama Dio, no? Con tutto il tuo cuore, la tua mente, con l'anima, e poi te ama il tuo prossimo come te stesso. Poi più in là, lui l'ha più semplificato ancora, perché la Bibbia dice in Giovanni 13, se avessi predicato su questo vi avrei detto che in Giovanni 13 è scritto che Gesù ha detto ai suoi discepoli, vi do un nuovo comandamento, e tutti hanno detto, ma un nuovo comandamento? Come? Cioè, già sappiamo, conosciamo il più grande. Un nuovo comandamento, siete pronti? E loro dicono, sì, qual è? Gesù dice, amatevi l'uno l'altro. Sì, ma è amare Dio? No, no, no, no. Amatevi l'uno l'altro. Questa è ancora più ridotto la sostanza. Amatevi uno l'altro. Ah, che amare Dio non è importante, non è più importante. No, è importante. Ma Gesù poi ha detto ai discepoli, verrà un tempo dove le persone per amor di Dio uccideranno altre persone, faranno guerre per amor di Dio, hai capito? Quindi, quando tu dici amo Dio, tu puoi uccidere tuo fratello e dire che ami Dio. Quindi, però se io dico amate uno l'altro, è impossibile senza amare Dio. E se avessi predicato su questo, vi avrei detto che Paolo anche ha detto... Se voi amate, vi amate a vicenda, adempite tutta la legge. Perciò ho detto, love well è l'essenza di tutto. E la seconda sarebbe stata live well. E perché dico questo? Perché quando Dio ha fatto Adamo ed Eva, non gli ha detto nient'altro, non l'ha detto evangelizzate il mondo, perché il mondo non c'era da evangelizzare, non c'erano malati, non c'erano perduti, non c'erano demoni da cacciare, non c'era niente, non c'era povertà, non c'era niente. Quindi cosa fai tutto il tempo se non devi evangelizzare nessuno come cristiano, no? Cosa facciamo? Quello che Dio voleva all'inizio, gli ha detto costruite la società. Sentite, il mandato alla Chiesa, quando Gesù ha detto andate in tutto il mondo e predicate, non ha preso il posto del primo. Il primo rimane... Costruite la società, live well. Dì alle persone che significa vivere bene. E queste due cose sono cose molto potenti. Se tu spendi la tua vita cercando di amare bene e vivere bene, hai fatto esattamente quello che Dio vuole che tu fai. Se tu impari ad amare tua moglie bene, ad amare tuo marito bene, ad amare i tuoi figli bene, che non significa essere d'accordo con tutto, amare le persone, la società, amare Modugno, amare l'Italia, essere patrioti, non significa essere d'accordo con tutto, ma dire io amo la mia nazione, che per l'amore per la mia nazione io prego, intercedo per l'Italia. Non dico, ah l'Italia, questi politici tutti corrotti, più diciamo che sono corrotti, più saranno corrotti, perché profetizziamo la corruzione ogni volta che diciamo sono tutti corrotti, rimaniamo corrotti. C'è bisogno di qualcuno che comincia a profetizzare una cosa diversa, no? Quando andate per le strade di Modugno, di Bari, ah, Bari è un posto pulitissimo, i turisti verranno e diranno qua si può mangiare a terra, è così pulito. E tu vedi le carte, la sporcizia a terra e tu profetizzi sulla città di Bari, che sarà una città bellissima. Anche i turisti diranno non soltanto il mare è bello, ma anche la terra è bella qua. Vivere bene, amare bene è qualcosa che se tu fai questo tutta la tua vita, Dio sarà tanto contento, perché è una cosa che prende tutta la nostra vita. E quindi non c'è bisogno che tu te ne intendi in tutte le aree teologiche. Se tu dici, io voglio amare la mia famiglia bene, voglio amare il mondo bene, voglio vivere bene, Dio dice che è bella la vita. Sapete, la vita è un regalo di Dio, non è una maledizione. Alcuni di noi hanno così tanti problemi che diciamo ma la vita non è un regalo. Per me non è un regalo. Per molte persone che non hanno la fortuna di essere qui oggi, la loro vita non è un regalo. È una sfida, è una maledizione per molte persone. Ma quando Dio ci ha messo su questo pianeta, Lui intendeva fare qualcosa di bello per noi. E quindi se la nostra vita, se la città nella quale noi viviamo, la nazione nella quale noi viviamo, sta diventando un posto brutto, è importante che noi credenti ci coinvolgiamo per farlo diventare un posto bello. L'altro giorno ho ricevuto un WhatsApp, un messaggio da una signora della chiesa di Bari. Ha detto, buongiorno Pastor Gianni, non voglio disturbarti, ma ho bisogno di chiederti un'informazione. È da qualche mese che ho iniziato una specializzazione all'università. Stamattina un avvocato è venuto al reparto per raccogliere le firme di chi è a favore dell'eutanasia assistita. Come ci dobbiamo comportare, come possiamo sostenere la sacralità della vita senza sembrare bigotti o arretrati? A me piacciono queste domande, perché non hanno a che vedere come facciamo la riunione di chiesa ancora più bella. Il che è bello, no? Io sono per riunioni, perciò oggi è bellissimo essere qui. Qualcuno ha pensato a rendere questa riunione non una qualsiasi? Si vede che c'è un pensiero. Ma sapete, noi non siamo stati fatti per essere in una riunione soltanto, siamo stati fatti proprio per queste cose qui. Quando uno viene nell'università e dice firmate qui, poveretti, vecchietti, che queste persone giovani che hanno tanto dolore e non vogliono soffrire più, non possiamo aiutarli più, dateli con compassione la possibilità di morire ufficialmente e legalmente. E tutti, oh, che bello, firmano. Però non dicono che arriverà un giorno dove le persone anziane diranno io non voglio essere di peso ai miei figli, e tolgo il disturbo, per favore aiutatemi ad andarmene. E poi si va oltre, ci sarà una società dove soltanto i forti sopravvivono, e tutti quelli che sono superflui possono andarsene. E poi dovrei parlare 3 giorni interi qui per dirvi le ripercussioni catastrofali sulla nostra società. Diventerebbe un posto brutto. Quando abbiamo cantato oggi, spero che lo cantiamo alla fine di nuovo, venga il tuo regno. Questo significa, quando domani io vado all'università, quando domani sto al mercato, sto al lavoro, e ho la possibilità di portare la gloria di Dio. Sapete che cos'è la gloria di Dio? La gloria di Dio, la parola gloria è doxa nell'originale, nella Bibbia. Doxa significa il modo di pensare di Dio. Il modo di fare di Dio, come Dio è, questa è la gloria di Dio. Quando tu dici Dio porta la tua gloria a Modugno, significa che il modo di pensare di Dio invade tutto Modugno, invade tutta l'Italia. E come avviene? Tramite voi. Quando noi non siamo zitti, abbiamo paura soltanto perché qualcuno ci chiama intollerante e ci chiude la bocca dicendo ma tu sei un bigotto, oh ma mi scuso, no, non Amici, è molto importante che noi ci siamo coinvolti in costruire non soltanto la nostra vita bella, no? Parlavo ultimamente con un amico e stavamo andando in città e ho detto, ma perché? Se quando tu vivi a Vienna, questa è un'altra nazione dove non c'è nemmeno una carta a terra, no? E vieni in Puglia, ti accorgi che quando esci dall'autostrada e fai quella, come si dice, l'uscita, c'è l'erba, c'è un sacco di mondezzi, un sacco di carte. E io ho detto, ma scusa, ma chi fa questo? E ho detto, sì, ma ci sono persone che non vogliono prendere il tempo di andare alla discarica, e quindi lo buttano alla finestra. Però io sono sicuro, se tu vai a casa loro, non c'è la carta a terra. Immagino tu vai dall'amico tuo e dici scusa, ho portato la mondezza, la butto qua. E lui dice, oh, ma che stai facendo? Come? Non mi... Eppure la gente lo fa fuori. Che significa questo? Il mio mondo, questo è importante. Il mondo che non è il mio mondo non è importante. Le buttiamo le carte a te. Questo mostra che noi esseri umani abbiamo una vita piccola, una veduta molto piccola della vita, che sarebbe solo io, no? E ora, siccome predicherò la predica di oggi, e questo è il bello, oggi ricevete 2 prediche in 1, voglio leggere il Padre Nostro, no? Perché sennò i ragazzi dicono, ma come Gianni, ci hai mandato i versi della Bibbia per niente? Allora, Matteo capitolo 6, è il tempo là, dice questo, Gesù dice questo, e per quando viene il Padre Nostro lì, lo preghiamo insieme, o okay? Lo dichiariamo insieme, o okay? Quando arriviamo alla preghiera, Padre Nostro, vorrei che tutti noi, che leggete e pregate questa preghiera insieme, alla fine diciamo insieme con tanta potenza, perché tu è il regno, è la potenza, è la gloria in eterno, amen, e amen lo gridiamo insieme, va bene? Ce la fate? Ok, allora Gesù disse, nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno, è la potenza, è la gloria in eterno. Allora, io non voglio predicare su tutto il Padre Nostro, però voglio dire tre cose importanti sul Padre Nostro. È una preghiera così corta che in effetti Gesù non l'ha fatto per caso, non ha detto sì, mo prego questo, era intenzionale la sua preghiera. E la cosa interessante è che all'inizio di questa preghiera Gesù dice, prima di tutto, parliamo del Padre, del suo nome e del suo regno. Il Padre, il suo nome e il suo regno. Queste sono cose in quello che Dio vuole che facciamo, creare, vivere bene, amare bene. Padre, il suo nome, la sua gloria, come la sua fama e il suo regno sono molto importanti nella preghiera. Io non so come la tua preghiera, quando tu preghi forse parti già dall'inizio quello che hai bisogno. Dio aiutami, cambia mio marito, fai diventare i bambini più obbedienti e dammi più soldi per pagare. E poi alla fine, sì signore... Poi non diciamo venga il tuo regno, diciamo Signore prendimi da questa valle di lacrime, vieni a rapire la tua chiesa, non ce la facciamo più. E Gesù dice com'è, io voglio venire e tu te ne vuoi andare, com'è? Com'è la teologia? Sì, il mio pastore ha detto che devi aspettare il rapimento. No, di' al pastore di cambiare la tua teologia, perché io non voglio rapirvi, voglio venire da voi e voglio prendere il mondo insieme a voi. Io me ne voglio andare da questo mondo di lacrime. Dio dice, prega di più, venga il tuo regno. Il tuo mondo di lacrime si trasformerà in un mondo di fiumi e gioia. Amen? E a volte ci vuole un po' di tempo, dobbiamo avere un po' di persistere un po', ma quello che Dio vuole è vuole venire. Quindi Padre, il tuo nome, il tuo regno, e dopo Padre, nome, regno, i tuoi bisogni. E sapete, non è perché i nostri bisogni non sono importanti a Dio, perché Dio sa, quando Lui dice pregate così, sta dicendo agli esseri umani, mettete le cose più importanti davanti e le cose meno importanti dietro. E tu dici, ma io non sono importante? No, tu sei importante, ma il fatto che ogni essere umano che è egocentrico vive una vita piccola. Se tu sei al centro della tua vita, la tua vita è piccola. Se tu sei al centro del tuo mondo, il tuo mondo è piccolissimo. La prima cosa che avviene quando tu dai la vita al Signore, diventi cristocentrico, significa Cristo è il centro della tua vita. E quando Cristo è al centro della tua vita, ti dice, ma guarda, tu ami solo questo tipo di persone, Gianni. È vero, sì, con gli altri non ce la faccio. No, io no. Io sono una persona diretta e chi non gli piace non mi ama. Io sono così, no? Io dico la verità. E Gesù dice, facciamo così, allarghiamo il tuo mondo un po', le tue amicizie, significa che tu devi cambiare, significa che a volte non dici quello che vuoi dire per amore della persona che è davanti a te, dici quello che lui ha bisogno di sentire. Invece di dire quello che deve cambiare, di quello che fa bene perché ha bisogno di essere incoraggiato. Sì, ma io non la faccio, signore, io devo dire le cose come sono. E dice, allora rimani col mondo piccolo, che ne vuoi? Che vuoi? Se tu vuoi un mondo più amici, devi cambiare. Quindi quando Cristo diventa il centro della tua vita, ti allarga. Invece di risparmiare, volevo dire sparagnare, lo so che non si dice. Invece di risparmiare, no, per te... È per quello che vuoi fare, comincia a dare a altre persone, comincia a arricchire altre persone. Tu vai a casa di una persona e la lavatrice si è rotta e si è entrata la seconda volta, ancora la lavatrice nuova non c'è, la terza volta la lavatrice nuova non c'è, tu lo sai che sta aspettando, sta risparmiando per comprare la lavatrice e tu vai fuori, compri la lavatrice, la fai portare, la fai montare. E ogni volta che vai lì, vedi la tua lavatrice là, che bello. Quindi c'è due lavatrici, una a casa tua e una a casa sua. E il tuo mondo si allarga. Quando vai in chiesa, ci sono delle cose che la chiesa ha potuto fare perché tu hai dato 100.000 euro. E quando vedi quello, dici, quella è una parte di me, il mio mondo si è allargato. Quando noi siamo al centro della nostra vita, diventiamo piccole piccole. Questa è una ragione per la quale tutte le persone a Modugno devono diventare seguaci di Gesù, per allargare la loro vita. Se no la vita è piccola. Noi nasciamo alla grande, fra un po', nasciamo alla grande e appena siamo nati cominciamo a rimpicciolirci perché diventiamo pieni di noi stessi. No, il giocattolo è il mio, non voglio darti il giocattolo. Là comincia a rimpicciolire la vita. E i genitori dicono ai figli, no dai, dai giocattoli, i tuoi giocattoli agli altri bambini. Sapete perché? Non così non avete problemi, non credono più. No, no, no. E così loro imparano ad avere una vita grande. Nascono alla grande e continuano ad ingrandirsi perché non siamo pieni di noi stessi. C'è una ragione perché Dio deve essere al centro della nostra vita. Immaginate una persona non cristiana vi sente cantare: Dio, sii il centro della mia vita, voglio essere come te. Questo ti direbbe, con ragione, ma che non sei soddisfatto di te stesso? Perché vuoi essere come Dio, scusa? E tu dici, no, no, no, se io sono come Dio, divento un essere umano migliore. Noi esseri umani siamo piccoli senza Dio. Quando Dio è al centro della nostra vita, oh, senza Dio non perdoniamo, senza Dio, con Dio perdoniamo, siamo generosi con l'amore, con l'attenzione. La vita è molto più bella quando Dio è al centro della nostra vita. Perciò ha detto, pregate, Padre, il tuo nome, il tuo regno, e dopo dacci oggi i nostri bisogni, perché se vivete così, vivete una vita più grande. E poi cosa dice Gesù? Dice, Padre nostro. Lui dice, prima, dice, quando pregate, chiudetevi nella stanzetta, soli soli, e quando sei nella tua stanza, solo solo, di Padre nostro. Ma non ha senso, se tu sei solo nella stanza, perché dici Padre nostro? Devi dire Padre mio, no? Non Padre nostro, perché sono solo. Ma sapete perché Gesù ha detto, quando ti chiudi nella tua stanzetta, di Padre nostro? È perché la relazione con Dio, la fede che noi abbiamo, non è qualcosa di personale, ma è di qualcosa di comunità. Questa è la ragione perché lo sto predicando questo. Quello che ho detto prima della predica, la predica avrei predicato se avessi predicato quello che volevo predicare, è più apostolico, no? Più meccanico, più pensare bene. Questo è quello che Dio vuole dirci ora. Non dobbiamo dimenticare che la fede è qualcosa comunitaria, non è personale. Perciò Gesù non ha detto tu sei la luce del mondo, ha detto voi siete la luce del mondo. Gesù non ha detto perché, mica ha detto una cosa per caso Gesù, mica diceva ah, ho detto voi, avrei potuto dire tu è lo stesso, non è lo stesso. Tu non sei la luce del mondo, voi siete la luce del mondo. L'ho detto un po' radicale, ma per fare il punto, no? Per sottolineare qualcosa. È importante. E se durante la pandemia tu hai pensato, ma sì, ho vissuto la spiritualità e la fede anche bene da solo, ma che bello, potevo sentire Stephen Furtick una domenica, e Brian Houston un'altra domenica, e poi quel pastore, quella, sto bello, a casa, in pigiama, mamma mia, che bello. Non devo vestirmi, prepararmi per andare in comunità o per andare nel piccolo gruppo, eccetera. Ma ho sperimentato che è possibile farlo nelle mura di casa mia. Sbagliato. Sapete quando si risponde male? Lo potete fare nel prossimo gruppo in casa. Qualcuno dice una cosa sgarrata. Dice, Padre nostro, sentite, è impossibile vivere fede al di fuori di comunità. Se dimentichi tutto oggi, non dimenticare questo, è impossibile. Quello che vivi non è la fede, perché in effetti poi la perdi. La gente perde la fede, se non sei attaccato alla comunità, perdi la fede, perché la fede si vive sempre nel contesto di comunità. Perciò ha detto, quando pregate dite, no Padre mio, Padre nostro, anche se sei solo, Padre nostro, è nostro, noi. È molto importante. La seconda cosa che poi Gesù, potrei dire un po' di più su questo, ma è molto importante che viviamo la fede nella comunità. Non pensate mai che se ci sono, ho visto nel vostro calendario, andrete al rifugio a fare barbecue. Non pensare, ah, è solo la barbecue, no, sto a casa. non c'è la predica, no, anche se forse ci sarà la predica, però no, no, non sottovalutare mai il venire, incontrarvi insieme, passare tempo insieme, andare a fare spese insieme, andare a mangiare insieme, a prendere un caffè insieme. Non pensate mai una cosa meno spirituale della riunione di chiesa. È un errore, un grande errore pensare questo, che l'incontro di chiesa è più spirituale che quando siamo insieme. Tutto è spirituale quando noi siamo coinvolti nell'essere comunità, è tutto spirituale. E quando andate a giocare a pallone è molto spirituale, perché ti accorgi come sono le persone veramente. Qua siamo tutti, siete così tutti belli qui, ma che alleluia. Alleluia. Dice Dio, dice, io vorrei una chiesa autentica. Ebbè, dà l'idea a qualcuno alla chiesa di giocare al pallone, così vediamo come sono, no? Voi pensate che diventare autentici è una predica sull'autenticità e poi diventiamo tutti autentici? No, vai a giocare a pallone. Una delle cose più spirituali è quando uno ha i figli di colpo, no? Di colpo, veramente. E poi portano tutto a galla quello che tu avevi represso con la tua spiritualità, viene tutto a galla. Wow! E tuo marito ti dice, amore, ma io non ti conosco così. Vabbè. Una volta ho giocato a tennis con un ragazzo della chiesa e lui era molto migliore di me, quindi giocavamo al tennis, però una volta, no, lui ha visto che io non so giocare come lui e si è sbilanciato un po', ha fatto molti errori e ha perso, no? Oh, avessi dovuto vedere cosa ha fatto Riccardo. Ha preso la racchetta, l'ha buttata a terra, boom, e ha cominciato a gridare. Io pensavo stava scherzando, io mi stavo guardando e poi ho visto che quello fa sul serio. E Riccardo, che è una persona così affabile, così, io ero sbalordito. E Dio mi ha detto, questo è Riccardo. Non lo fai in chiesa perché è vietato. Ma... quella era una cosa spirituale. Se tu pensi spirituale solo alla riunione di chiesa, ti sbagli. Spirituale, tutto quello che facciamo come comunità. E più siamo autentici, più ci mostriamo come siamo veramente, così possiamo aiutarci a vicenda, più cresciamo nella comunità e nella fede in Dio insieme. Amen. Quindi andate a giocare a pallone. Padre nostro, e poi Gesù dice, quando pregate dite Padre. Padre, sapete che Dio vuole essere chiamato più Padre che Dio. Non ha detto, quando pregate dite Dio nei cieli, Re del firmamento, Creatore del cielo e della terra. Dice, no, dite Padre nostro. Sapete, ci sono tanti dei al mondo. Dio non aveva mai intenzione di essere in competizione con nessuno, perché lui lo sa che è il più grande, il più forte, non ha bisogno di essere un Dio migliore dell'altro Dio. Quello che hanno fatto nel Vecchio Testamento, si vede sempre questo conflitto dei Dii, no? Il nostro Dio è più forte. E Dio dice, smettete, io non sono in competizione con nessuno, non dovete mostrare a nessuno che io sono più forte, io sono più forte, non lo devo sapere, io lo so già. Quello che voglio che sapete, che io sono il vostro papà. Io non sono il vostro boss, la Chiesa, noi come Chiesa siamo così coinvolti, io sono così coinvolto in tante cose strategiche che io ogni giorno quando mi sveglio mi devo ricordare che io non sto parlando con il mio datore di lavoro, sto parlando con papà. E se noi non comprendiamo e non viviamo in questa certezza che Dio è il nostro papà, in primo luogo vuole essere padre e non Dio, Signore, tutte queste cose qua, anche se sono tutti attributi biblici, Dio vuole essere padre. Se tu sei su questo fondamento, Dio è mio padre, tutto quello che faremo come chiesa, anche se è organizzato al massimo, non avrai mai il feeling che è un business, è sempre una famiglia. Una famiglia ben organizzata, ma è una famiglia. Perché? Perché il boss è papà. E alla fine, l'ultimo punto che voglio portare, nel meno, io sono già a meno 43 secondi. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. L'abbiamo cantato oggi, è stato bello. Due canzoni abbiamo cantato sul regno di Dio. Venga il tuo regno. Non venga il mio regno. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. ma frate, a me sta musica, questa adorazione non mi piace. Sì, venite, Giuseppe, dov'è Giuseppe? Giuseppe, ma questa adorazione qua è troppo forte. Ma frate, quell'adorazione non era per te, no? È per Dio. Invece se è forte per te non mi interessa. Dio deve gradirla, perché stiamo adorando Lui. Perché la nostra preghiera è venga il tuo regno, non venga la mia chiesa, il mio modo di fare, le mie preferenze. No, no, in ogni cosa diciamo Dio venga il tuo regno, venga il tuo regno a Modugno, venga il tuo regno a Bari, venga il tuo regno in Italia, venga il tuo regno nella ditta dove lavoro, venga il tuo regno nell'università, dovunque noi siamo, venga il tuo regno. Sapete che se noi come cristiani siamo concentrati a vorrei il regno di Dio, avremmo meno litigi, meno cose così piccole sulle quali cambiamo tutto nella nostra vita, se noi penseremo più al regno di Dio. Sarebbe così bello se oggi ognuno di voi va a casa dicendo: Dio, non voglio essere al centro della mia vita. Papà, voglio che tu sei mio padre. Voglio avvicinarmi alla Chiesa di più di prima, alle persone. Voglio smettere di dire quello che sono io, sono in privato e poi faccio anche Chiesa. No, no, tutto è uno, tutto io come persona, come famiglia, siamo parte di una famiglia. Ci apriamo, ci diamo, ci spendiamo, perché non viviamo per noi, viviamo per gli altri. Avete sentito persone che dicono: ho vissuto tutta la vita mia per i miei figli e per mio marito e ora basta. E io dico: che cosa vuoi fare? Ora faccio quello che voglio io. E che cosa vuoi fare? Cambio marito. Ora voglio vivere per me. Ogni persona che comincia a vivere per se stesso diventa povera. La vita si rimpicciolisce. Forse questo esempio è per una persona qui, non lo so, che sta dicendo: ora basta, la pandemia, ho lavato per tutti, ho cucinato per tutti, ora basta. E cosa vuoi fare? Sai cosa puoi fare? Puoi dire: Signore, ti ringrazio per quello che ho imparato, io voglio imparare a vivere per te e per gli altri più di prima, voglio allargare la mia vita. Nella pandemia ho scoperto di cosa sono capace, non soltanto nelle cose negative, ma anche nelle cose positive. Cosa posso fare? Wow, posso spendermi di più per altre persone. Signore, allargami, rendimi capace di accogliere più persone nel mio cuore, nel mio cerchio di amore, di accettanza. Che bello, e tutti diventiamo i più grandi. Amen. Venga il tuo regno, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Sapete, io amo il mondo, amo la vita, amo l'Italia, amo l'Austria, amo il mondo intorno a me. Non sono una persona che vede le cose negative, no? Che dici: mamma mia, sto mondo sta andando alla rovina, no? Non mi piace fare questo, perché a me piace il mondo, a me piace la vita. Però devo dire questo, cara Chiesa, che più che mai dobbiamo coinvolgerci, dobbiamo dire più che mai: Signore, venga il tuo regno. Quando esco da casa mia, voglio che l'atmosfera fuori di casa mia è la stessa che in casa mia. Vogliamo che il giardino, sapete, Adamo ed Eva vivevano nel giardino nel quale Dio li ha messi, ma il resto del mondo non era così bello. E il loro lavoro era: rendi il resto del mondo come il giardino. C'era molto da fare, c'era molto lavoro. E questo lavoro ce l'abbiamo ancora oggi. Rendiamo il resto del mondo come il regno di Dio in noi. Amen. Alziamoci in piedi, per favore. Sarebbe bello se possiamo fare questo. Con una mano, la mano destra la mettete sul vostro cuore, qui, cuore fisico, e l'altra mano la alzate. Ok? Signore, io ti chiedo di allargarci. Tutte le persone qui che hanno iniziato a vivere una vita piccola, specialmente in questo lockdown, ci siamo rimpiccioliti. siamo diventati piccoli, abbiamo smesso di fare cose che facevamo prima, veramente fisicamente facciamo molto di meno, e questo ha reso alcuni di voi ha portato questa situazione che vi siete rimpiccioliti, siete diventati piccoli nelle vostre aspirazioni, nei vostri sogni, e Dio vuole riaprirci, Dio vuole riallargarci. Ci sono alcuni qui, avete iniziato a vivere una vita molto, molto materialistica, molto piccola, e Dio dice: questo non ti va bene, hai comprato un vestito che non ti sta proprio, toglilo, voglio darti qualcosa di più colorato, qualcosa di più bello, dai. Spirito Santo, io ti chiedo di venire su ognuno che ha cominciato a vivere una vita piccola, e che tu ci allarghi, che tu ci allarghi. Ci sono delle persone qui che hanno cominciato a ridurre i loro sogni, farli più piccoli, a causa di quello che le persone ti hanno detto intorno a te, hanno detto: ma sei sicura? Soltanto questa frase, ma sei sicuro? Ti è così intimidato che tu hai detto: ma forse sono un pazzo, forse dovrei cambiare piani. E Dio dice: no, non fatti rendere insicuro, tu sapevi quello che volevi fare, era qualcosa, un'idea che avevo messo io nel tuo cuore, non farti ridurre da altre persone intorno a te. Se questa parola "sei sicura" ti ha intimidata, cancellala dalla tua vita, falla uscire. Dio la vuole sradicare dalla tua anima, sei sicuro, perché ti ha reso insicuro. E forse c'è qualche persona qui che ha detto: ora basta, ho vissuto per gli altri, ora basta. E Dio vuole che tu ritiri queste parole, ora basta, che tu le cambi con: ora vado avanti, più che mai, mi spento più che mai, e Dio mi darà la forza più che mai, diventerò una persona più grande più che mai, e il mio mondo si allargherà più che mai. C'è un po' di pentimento da fare per alcuni di noi oggi, che significa tornare, girare e tornare indietro. Ultimamente ho avuto una parola profetica per la nostra chiesa a Vienna. Dio mi ha detto: di' alla chiesa di ritornare ad alta voce, non ritornare a bassa voce, ritornate ad alta voce. Come back loud. Ci sono alcuni di voi che devono ritornare nella vita ad alta voce, non a bassa voce, non piano piano, ad alta voce. Se tu sai cantare in altre lingue, fallo ora. Ora mamma massere che demo corona massere la nasci. Che era massera nasci. Re ramare. Where the spirit of the Lord is freedom. Where the spirit of the Lord is freedom, is freedom, reconciliation. Where the spirit of the Lord is freedom, and strength and power and reconciliation. Hey. Spirito Santo, io sono così contento che alla fine di questa predica tu continui a lavorare in noi e a espandere le nostre vite, allargarci, aprire tutto quello che si è chiuso. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nome di Gesù. Where the spirit of the Lord is, there is freedom. Hey. C'è una persona qui, almeno una persona, forse questo è per più di una persona. Tu hai scoperto una parte di te in questo tempo di lockdown, nel periodo che tu hai detto, ma questa è una parte di me che io non conoscevo. E sei scoraggiato perché hai visto una parte di qualcosa di te che non pensavi eri. Hai cominciato a dubitare di più, hai cominciato a essere sfiducioso. E tu non ti conosci così. E Dio vuole dirti ora, infatti, tu non sei così. Tu non sei così. Quindi ritorna a essere chi sei. Non pensare, ma forse questo è quello che sono veramente. Dio dice, no, quella è una bugia. Tu non sei così. Ritorna a essere chi sei. Una persona che ha fiducia. Una persona aperta. Una persona che crede. Una persona che è un bambino. Che dice, se Dio l'ha detto, per me basta. Non devo cominciare a chiedere, ma chissà, ok? C'è qualcuno che ha bisogno di questa parola. Tu non sei come hai sperimentato, tu sei diverso. Ritorna a quello che eri. Amen? Amen. E possiamo cantare la canzone del Regno di Dio, quella potente, là? Sei bello. Che bello. Grazie per avermi ascoltato. Extra time.